Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. La mia speranza di ottenere la mano di una delle più ricche ereditiere di Germania era ormai entro i limiti dell'umanamente possibile e nella misura in cui i miei meriti e la mia accortezza potevano effettivamente garantirmi il successo, destinata a realizzarsi. Ero ammesso negli appartamenti della principessa in qualunque momento mi presentassi e lì avevo tutte le occasioni che volevo di incontrare la contessa Ida. Non posso dire che mi ricevesse con particolari segni di favore. L'affetto di quella giovane sciocchina era, come ho già detto, ignobilmente impegnato altrove. E per quanto affascinanti potessero essere la mia persona e i miei modi, non c'era da aspettarsi che tutto ad un tratto lei dimenticasse il suo innamorato per amore di un giovane gentiluomo irlandese che si era messo a farle la corte. Ma le piccole ripulse che ricevevo non mi scoraggiavano certo. Avevo amici molto potenti che mi avrebbero aiutato nell'impresa e sapevo che prima o poi la vittoria sarebbe stata mia. Per dirla tutta, aspettavo solo il momento giusto per avanzare una richiesta formale. Chi poteva prevedere la terribile sciagura che incombeva sulla mia illustre protettrice o immaginare che la sua rovina avrebbe coinvolto in parte anche me? Per qualche tempo tutto sembrò più che propizio ai miei desideri, nonostante la riluttanza della contessa Ida. Indurla alla ragione era cosa molto più facile di quanto forse non si supponga in uno stupido paese costituzionale come l'Inghilterra, dove alla gente non vengono insegnati quei sani sentimenti di obbedienza al potere regio che erano la norma in Europa quando ero giovanotto. Ho già detto come, attraverso Magni, io avessi la principessa, per così dire, ai miei piedi. Bastava che Sua Altezza sollecitasse il matrimonio presso il vecchio duca, su cui aveva un'influenza illimitata, e si assicurasse il sostegno della contessa Lillingarten, era questo il romantico titolo della moglie morganatica di Sua Altezza il duca, perché quel docile vecchio desse gli ordini per le nozze. La sua pupilla avrebbe dovuto obbedire per forza. E Madame de Lillingarten, data la sua posizione, ci teneva moltissimo a rendersi gradita alla principessa Olivia, che in qualunque momento poteva essere chiamata a occupare il trono. Il vecchio duca era traballante, apoplettico e adorava la bella vita. Alla sua scomparsa, la vedova avrebbe avuto assolutamente bisogno della protezione della principessa Olivia. C'era, quindi, una stretta intesa reciproca tra le due signore e a corte si diceva che la principessa ereditaria fosse già in debito verso la favorita del duca per l'aiuto ricevuto in diverse occasioni. Sua Altezza la principessa aveva ottenuto, attraverso la contessa, parecchie sostanziose concessioni di denaro per pagare i suoi svariati debiti e ora fu tanto gentile da esercitare la sua graziosa influenza su Madame de Lillingarten per procurarmi l'oggetto tanto caro al mio cuore. Non si creda che il mio fine potesse essere raggiunto senza molte dimostrazioni di riluttanza e continui rifiuti da parte di Magni, ma io tiravo dritto, senza esitare, e avevo in pugno i mezzi per vincere la testardaggine di quel debole giovanotto. Posso anche aggiungere, senza vanità, che se la tronfia principessa mi detestava, la contessa di Lillingarten, seppure di origini estremamente umili a quanto si dice, aveva più buon gusto e mi ammirava. Ci faceva spesso l'onore di tenere il banco del faraone insieme a noi e dichiarava apertamente che ero il più bell'uomo del ducato. Tutto ciò che mi si richiedeva era di provare la mia nobiltà. A Vienna mi procurai un albero genealogico che avrebbe soddisfatto i più esigenti in materia. E in realtà, cosa aveva da temere un discendente dei Berri e dei Bredi da qualsiasi fon di Germania? Per mezzo dei miei talenti e della mia onestà e della mia intelligenza, mi ero trovato dei protettori davvero molto potenti per essere un povero esule senza appoggi. Persino Sua Altezza il Duca Victor era ben disposto verso di me. Quando il suo destriero favorito si era ammalato di capostorno, io gli avevo dato una pillola di quelle che mio zio Bredi dava alle sue bestie e l'avevo guarito. Da allora Sua Altezza si compiacque di rivolgersi spesso a me. Mi invitava alle sue battute di caccia, dove mi dimostravo buon cacciatore, e un paio di volte si degnò di parlare con me delle mie prospettive per il futuro, deplorando che mi fossi dato al gioco invece di scegliere un modo più corretto per farmi strada nella vita. «Signore», dissi io, «se mi permettete di parlare francamente a Vostra Altezza, il gioco per me è solo un mezzo usato in vista di un fine. Dove sarei ora senza il gioco? Farei il soldato nei granatieri di Re Federico. Io vengo da una stirpe che ha dato al mio paese dei principi, ma le persecuzioni li hanno privati dei loro vasti possedimenti. Fu la fedeltà di mio zio alla religione degli avi a cacciarlo via dal nostro paese. Io stesso decisi di tentare la carriera militare, ma le insolenze e i maltrattamenti che ricevevo dagli inglesi erano intollerabili per un gentiluomo di sangue illustre e fuggii dall'esercito. Fu solo per cadere in un'altra schiavitù, sotto ogni aspetto ancora più disperata. Ma allora la mia buona stella mi inviò un salvatore nella persona di mio zio, e la mia intelligenza e il mio valore mi permisero di approfittare dei mezzi a disposizione per fuggire. Da allora abbiamo vissuto, non lo nascondo, con il gioco. Ma chi può dire di aver ricevuto un torto da me? Eppure, se potessi trovarmi a occupare una posizione onorevole, con i mezzi di sussistenza assicurati, non toccherei mai più una carta, se non per svago, come fanno tutti i gentiluomini. Supplico Vostra Altezza di informarsi attraverso il vostro ambasciatore a Berlino, per sapere se io non mi sia comportato in ogni circostanza da soldato valoroso. Sento di avere capacità più elevate e sarei fiero di avere occasione di esercitarle se, come non dubito, la mia fortuna le metterà in gioco. Il candore di questa dichiarazione colpì molto Sua Altezza, impressionandolo favorevolmente. Si compiacque di dire che mi credeva e che sarebbe stato lieto di rimanere mio amico. Ora che avevo arruolato dalla mia parte i due duchi, la duchessa e l'attuale favorita, avevo certo ottime probabilità di impadronirmi del grande premio. Secondo tutti i calcoli più ragionevoli, nel momento in cui scrivo queste parole, dovrei essere un principe dell'impero, se la mia mala sorte non mi avesse raggiunto per mezzo di una faccenda in cui io non avevo nessuna colpa. L'affetto dell'infelice duchessa per quel francese debole, sciocco e vile. I segni visibili di questo amore facevano male soltanto a guardarli. Più tardi la sua fine fu spaventosa al solo pensiero. La principessa non faceva mistero dei suoi sentimenti. Se Magni diceva solo una parola a una dama del suo seguito, lei subito si ingelosiva e aggrediva con tutta la furia della sua lingua la sua sfortunata colpevole. Gli mandava una mezza dozzina di biglietti al giorno. Quando lui arrivava per unirsi al suo circolo o ai suoi ricevimenti a corte, lei si illuminava in viso e tutti se ne accorgevano. C'era da meravigliarsi che suo marito non fosse venuto a conoscenza della sua infedeltà molto tempo prima, ma il principe Victor era di natura così elevata e inflessibile che non poteva credere che lei potesse abbassarsi tanto al di sotto del suo rango da dimenticare la propria virtù. e ho sentito dire che quando gli si accennava all'evidente parzialità che la principessa mostrava per il marescalco, per tutta risposta ordinava seccamente che non lo si disturbasse più a quel proposito. «La principessa è un po' leggera», diceva. «È stata educata in una corte frivola, ma la sua leggerezza non va al di là della civetteria. Un vero crimine è impensabile. A difenderla sono la sua nascita, il mio nome e i suoi figli». Quando vidi che lo sfortunato Monsieur de Magny sembrava ormai del tutto perduto, nonostante i diritti che potevo avanzare su di lui, lo incitai a fuggire. Viveva a palazzo, in una mansarda sopra gli appartamenti della principessa. Il fabbricato era immenso e ospitava tutta una popolazione di nobili al servizio della famiglia. Ma quel giovane sciocco e infatuato non voleva muoversi di un dito e non aveva neppure la scusa dell'amore per rimanere. «Com'è strabica!» diceva della principessa. «E com'è malfatta! Crede che nessuno si accorga della sua deformità. Mi scrive versi copiati da Gresset o Crébillon e si illude che io li creda originali. Ma che? Non sono più suoi, dei suoi capelli!» E così quel disgraziato ragazzo stava danzando sul ciglio dell'abisso che gli si spalancava sotto. Credo proprio che il maggior piacere che ricavava dal fare all'amore con la principessa fosse di raccontare le sue vittorie nelle lettere agli amici dei circoli di Parigi, dove ci teneva a essere considerato un uomo di carattere e un conquistatore di dame. Vedendo la temerarietà di quel giovanotto e i pericoli della sua posizione, divenni molto ansioso di portare a buon fine almeno il mio piccolo piano e lo sollecitai caldamente a questo riguardo. In genere queste mie esortazioni avevano un discreto successo, inutile dirlo, per la natura stessa dei nostri rapporti. Di fatto, quel poveraccio non poteva rifiutarmi nulla. Come gli dicevo spesso ridendo, per quanto lui non l'apprezzasse affatto. Ma non usavo solo le minacce o la legittima influenza che avevo su di lui. Agivo anche con delicatezza, con generosità. E per provarlo posso dire che gli promisi di restituire alla principessa lo smeraldo di famiglia, che, come ho detto nel capitolo scorso, avevo vinto al gioco a questo suo spasimante privo di scrupoli. Questa promessa la feci con il consenso di mio zio, anzi, fu una delle sue solite precauzioni quasi profetiche, così caratteristiche di quell'uomo accorto. «Fai pressione ora per concludere la cosa, Redmond, ragazzo mio», mi incitò. «Questa relazione tra Sua Altezza e Magny può solo finir male per tutti e due, e anche presto. E allora, che ne sarà della tua chance di ottenere la contessa? È questo il tuo momento. Prenditela e sposatela prima della fine del mese. Lasceremo perdere i nostri affari al tavolo da gioco per andare a vivere da nobili nel nostro castello in Svevia. E sbarazzati anche di quello smeraldo», aggiunse. «Se capitasse un incidente, sarebbe un brutto deposito da farsi trovare in mano». Solo per questo mi risolsi a rinunciare al possesso del gioiello e devo dire che mi dispiaceva di separarmene. Ma cederlo fu una fortuna per entrambi, come presto sentirete. Quella sera diedi al cavalier de Magny lo smeraldo che gli promise di restituire alla principessa. A questo punto l'unico ostacolo sulla mia strada era il principe ereditario, di cui tutti avevano timore, suo padre, sua moglie e la favorita. Poteva non essere disposto a permettere che la più ricca ereditiera del ducato venisse portata via da un uomo di rango, ma non ricco, e in più straniero. Ci voleva tempo per rivelare la faccenda al principe Victor. La principessa doveva coglierlo in un momento di buon umore. Aveva ancora delle giornate di infatuazione in cui non poteva negare nulla a sua moglie. Il nostro piano era di attendere uno di questi giorni o qualunque altra occasione potesse presentarsi. Ma era destino che la principessa non vedesse mai più suo marito ai suoi piedi, per quanto spesso ciò fosse accaduto in passato. Il destino stava preparando un terribile finale per le sue follie e anche per le mie speranze. Nonostante le solenni promesse che mi aveva fatto, Magni non restituì mai lo smeraldo alla principessa Olivia. Aveva sentito, in un casuale scambio di battute con me, che mio zio e io avevamo un debito verso Mr. Moses Law, l'usuraio di Heidelberg, che ci aveva fatto un buon prezzo per i nostri preziosi. Quel pazzo giovanotto trovò un pretesto per andare da lui e gli offrì in pegno il gioiello. Moses Law riconobbe subito lo smeraldo e diede a Magni la somma richiesta, che il cavaliere subito perse al gioco, senza mai farci sapere, naturalmente, come fosse venuto in possesso di un simile capitale. Mio zio e io, intanto, andavamo col vento della fortuna in poppa, prosperando con le nostre carte e con quell'altra partita ancora più grande in cui eravamo impegnati, che aveva in palio un matrimonio, e non ci accorgevamo affatto della mina innescata sotto i nostri piedi. Prima che fosse passato un mese, l'ebreo cominciò a tormentare Magni. Si presentò al ducato e chiese nuovi interessi per pagare il suo silenzio, altrimenti avrebbe dovuto vendere lo smeraldo. Magni gli trovò del denaro. La principessa aiutò ancora una volta il suo vile amante. Ma il successo della prima richiesta servì solo a rendere la seconda ancora più esorbitante. Non so quanto denaro venne storto e pagato per quel disgraziato smeraldo, ma fu la causa della rovina di noi tutti. Una notte tenevamo il nostro solito tavolo dalla contessa di Lillingarten e Magni, trovandosi non si sa come in buone acque, continuava a tirar fuori denaro e denaro e a giocare con la consueta sfortuna. Nel bel mezzo del gioco gli portarono un biglietto. Lui lo lesse e mentre lo leggeva diventò molto pallido, ma in quel momento aveva la fortuna contro e dopo aver rivolto uno sguardo ansioso all'orologio aspettò di voltare ancora qualche carta. E una volta perso tutto quello che aveva, si alzò in piedi con una violenta bestemmia che spaventò alcuni membri della raffinata compagnia lì raccolta e uscì dalla stanza. Si sentì fuori un gran scalpitare di cavalli, ma eravamo troppo presi dai nostri affari per curarcene e continuammo a giocare. Poco dopo qualcuno entrò nella sala da gioco e disse alla contessa: «Sentite che strana storia, è stato assassinato un ebreo nel Kaiserwald. Magni è stato arrestato appena uscito dalla stanza». Udite queste strane notizie, la compagnia si disperse e noi chiudemmo il banco per la notte. Durante il gioco Magni aveva occupato il posto accanto al mio. Mio zio dava le carte e io pagavo e riscuotevo il denaro. E guardando sotto la sedia, vidi che c'era un foglietto spiegazzato. Lo raccolsi e lo lessi. Era quello che gli era stato consegnato prima. E diceva così: «Se davvero l'avete fatto, prendete il cavallo dell'ordinanza che vi porta questo messaggio. È il migliore della mia scuderia. Ci sono 100 luigi in ciascuna fondina e le pistole sono cariche. Tutte e due le vie vi sono aperte. Sapete cosa voglio dire? Entro un quarto d'ora conoscerò il vostro destino. Se io debba essere disonorato e sopravvivervi, se voi siate colpevole e vile, o se invece siate ancora degno del nome di...» La calligrafia era quella del vecchio generale de Magny. E mio zio e io, mentre camminavamo verso casa quella notte, sentimmo che con la lettura di quel biglietto il nostro trionfo forse era andato in pezzi. «Magny ha derubato l'ebreo?» ci chiedevamo. «Oppure il suo adulterio è stato scoperto?» In entrambi i casi, le mie pretese alla mano della contessa Ida avrebbero probabilmente incontrato seri ostacoli. E io cominciai a sentire che la mia grande carta era stata giocata e forse perduta. Ebbene, era perduta, anche se sostengo ancora oggi che era stata giocata con abilità e audacia. Dopo cena, non cenavamo mai durante il gioco per paura di spiacevoli conseguenze, i miei pensieri divennero così agitati che decisi di fare una sortita in città, verso mezzanotte, per informarmi sul vero motivo della cattura di Magnì. Alla porta di casa c'era una sentinella che mi informò che io e mio zio eravamo in arresto. Ci tennero nelle nostre stanze per 6 settimane. In quelle 6 settimane accaddero eventi grandi e tragici, di cui sentimmo parlare a grandi linee, come tutti in Europa, una volta rilasciati da quella prigionia. Ma non riuscimmo certo a capire i singoli particolari che dovevano restarmi pressoché ignoti per molti anni ancora. Eccoli qui, come mi vennero riferiti dalla signora che forse più di chiunque altro al mondo poteva conoscerli. Ma è meglio che il suo racconto dia materia a un altro capitolo. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.